Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. Quattro istituti di credito a un passo dal fallimento, Banca Etruria, Banca Marche, Cassa di risparmio di Chieti e Cassa di risparmio di Ferrara, che il governo ha deciso di salvare con un fondo da 3,6 miliardi a carico del sistema bancario. Ora, tra veti europei e polemiche politiche, con i 100 milioni inseriti nella legge di stabilità si prova a far fronte ai rimborsi dovuti a quei risparmiatori che, avendo sottoscritto obbligazioni subordinate, hanno perso tutto il loro investimento. Una vicenda dai risvolti decisamente preoccupanti, che attiene sia alla tutela del risparmio che all'indispensabile rapporto fiduciario che deve intercorrere tra risparmiatori e banche. Non è la prima volta che il nostro paese si trova ad affrontare una questione così rilevante. Se andiamo indietro nel tempo, non possiamo non ricordare che nei primi anni dell'Unità d'Italia ci fu un clamoroso crack, il crack della Banca Romana, che mise in luce un insieme di corruzione, malaffare fare e commistioni tra alta finanza e politica. Era il 1893. Alla fine del 1892 era in discussione alla Camera la proroga di 6 anni da concedere ai diversi istituti di emissione cui il neonato Regno d'Italia aveva affidato la concessione di stampare moneta per conto dello Stato. Nel corso del dibattito emersero gravi irregolarità che condussero all'istituzione di una commissione di vigilanza parlamentare. Il 20 gennaio 1893, ultimati gli accertamenti, la commissione stabilì che la Banca Romana aveva abusato della concessione affidatale. La banca era stata autorizzata a stampare 60 milioni di lire, ma al momento dell'ispezione risultò che ne aveva stampati e messi in circolazione 113. Lo scandalo fu enorme. Vennero arrestati il governatore della banca, il senatore Bernardo Tanlongo e il cassiere, Barone Lazzaroni. Emerse che la banca finanziava politici e affaristi, stampando biglietti falsi. Da qui la decisione di porre in liquidazione la banca e di accelerare l'iter di approvazione della legge che dal 1 gennaio 1994 istituì la Banca d'Italia. Emersero le responsabilità di decine tra parlamentari e nomi di spicco dell'alta finanza romana. Le somme erano servite anche a finanziare le campagne elettorali di diversi politici dell'epoca, a partire dallo stesso Giolitti. Era stato il deputato Napoleone Colaianni a rendere noti in Parlamento i risultati dell'inchiesta condotta dal senatore Alvisi sulle operazioni condotte dalla Banca Romana, aprendo così la strada a uno dei più clamorosi scandali del XIX secolo. E già, però alla fine anche qui la storia si ripete e nessuno pagò. Il processo del 1894 assolse tutti, anche Tanlongo, per insufficienza di prove, ma le ripercussioni politiche furono notevoli, provocarono le dimissioni di Giolitti il 15 dicembre del 1893 e il ritorno di Crispi al governo. Giolitti tornerà al governo solo dopo 10 anni. Uno scandalo che i giornali raccontarono tra intimidazioni e ricatti, come mostra questo passaggio della fiction della Rai di Stefano Reali, lo scandalo della Banca Romana. Edizione straordinaria, crollo della Banca Romana, tutti i nomi dei corrotti, edizione straordinaria, crollo del governo Giolitti. Gira voce di un'ispezione del Ministero del Tesoro. E qui ci sono milioni che vanno e vengono. E lì c'è uno stipendio ridicolo per un funzionario bravo e scrupoloso come lei, che si ammazza di lavoro per 2 lire. Ma le sembra giusto? Aspettate un attimo, questo è il soccorso. Questo è un attacco alla libertà di stampa. Non potete chiudere un giornale così. Nessuno di voi che ha mosso un dito per aiutarmi, nessuno. Abbiamo in linea Mario Robioni, docente di storia economica all'Università di Udine. Buonasera, professore. Buonasera, buonasera. Grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, parliamo della Banca Romana. In realtà, certo, pure con diversità profonde, eravamo in un'altra epoca, però, insomma, una qualche somiglianza con quel che è accaduto oggi, forse è possibile rintracciarla. Che dice? Beh, allora, senz'altro per lo scalpore che desta sui quotidiani, quindi per la diffusione delle notizie emerse dalla cronaca in tempi recenti, senz'altro si può trovare una similitudine. Il problema della Banca Romana e lo scandalo della Banca Romana, tuttavia, assunse dimensioni ben più gravi in quanto le responsabilità politiche, per quanto non emersero colpevoli in sede giudiziaria, come diceva giustamente lei prima, furono palesi. Queste responsabilità politiche, tuttavia, è bene precisare che non vanno circoscritte a quelle elargizioni o ai prestiti, anche questi documentati, fatti allora dalla Banca Romana, uno dei sei istituti di emissione, ad alcuni politici allora, quanto piuttosto all'aver sottovalutato, quindi da parte della classe politica, la crescente inflazione creditizia, quindi l'aumento della circolazione e la speculazione che era in atto nel paese già da qualche anno. Certo. E quindi quanto a similitudini con la situazione che stiamo vivendo oggi, senz'altro si potrebbe far riferimento al periodo più generale di crisi economica che stiamo vivendo in Italia, certo, e in Europa da un po' di anni a questa parte. Sì, poi tra l'altro ricordiamo che dietro questo scandalo c'era anche la famosa bolla immobiliare di quegli anni, che insomma in qualche modo poi lo riporta anche alla crisi che è scoppiata negli Stati Uniti qualche anno fa. Esattamente, cioè diciamo che la bolla immobiliare è uno dei tasselli che contribuisce a indebolire il sistema bancario italiano tra la fine degli anni 80 dell'Ottocento e l'inizio degli anni 90, quando emerge il dissesto ed emergono le irregolarità della banca romana. Però, professore, non è proprio il solo caso, perché se noi andiamo a indagare quello che accade qualche anno dopo, forse lei stesso ne ha scoperto altri esempi, altre tracce, vero? Sì, negli anni 20. Non è quello della Banca Romana il solo caso, ce n'erano stati anche prima, i casi di anche in precedenza, anche all'inizio dell'unità d'Italia, ma ce ne sono stati anche dopo. E, in particolare per la pericolosità e per la diffusione di un dissesto che poteva mettere in ginocchio gran parte dell'economia nazionale, forse meriterebbe ricordare la crisi che colpì un gruppo di una cinquantina di banche nella seconda metà degli anni 20, un gruppo di banche cosiddette cattoliche, perché erano banche che erano sorte su iniziativa del mondo cattolico tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. E la particolarità, diciamo, di questa crisi di queste banche cattoliche sta nel fatto che erano banche per lo più di provincia, quindi di piccoli centri, banche, faccio alcuni nomi: Banca Marchigiana di Ancona, Piccolo Credito di Ferrara, Banca Cattolica di Udine, che nel complesso amministravano una massa di depositi di circa 2 miliardi di lire. Ma cosa emerse? Cioè delle cattive gestioni, una incapacità di gestire il risparmio? Allora, emersero problematiche relative alla mala gestione dell'amministrazione del risparmio, e in quanto queste banche avevano prestato e quindi impiegato i denari raccolti in imprese che anche quella volta, per il periodo di difficoltà economica della seconda metà degli anni 20, dopo dopo quota 90, sì, il sistema economico italiano e anche quello imprenditoriale stavano vivendo. E in particolare da sottolineare che dal 1926 la Banca d'Italia aveva assunto il compito di vigilare sugli istituti di credito. Mm-hmm. E non solo, quella prima legge bancaria aveva introdotto alcuni vincoli che cui le banche dovevano sottostare nella gestione del risparmio. Certo. E quindi la difficoltà da parte delle banche di rispettare questi vincoli fu uno degli elementi che portò poi alla luce il dissesto. La soluzione venne anche quella volta attraverso un intervento del governo, che avallò, seppur con difficoltà, insomma, la costituzione di un istituto centrale di credito che aveva il compito di liquidare la crisi. Quindi anche in questo caso vediamo che rispetto a quello che sta accadendo in questi giorni ci sono notevoli punti di consonanza. Professore, la ringraziamo moltissimo per essere stato con noi e averci condotto indietro nel tempo nella, come dire, storia di qualche fallimento di qualche banca nel corso del secolo scorso. Grazie professore, buona serata. Grazie a lei, buona serata.